passato, né un rifugio ha trovato. Puoi sognarlo anche tu, dove il vento incontra il mare blu, ma in quel fiume affogherà chiunque vada troppo in là. Tra quelle acque tu potrai sentire un suono magico, ma le risposte che avrai le saprai. Lo avrai trovato.